Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs. Ben ritrovate e ben ritrovati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Van Loon. Siete sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko e questa è la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come forse già saprete, per tutto aprile Van Loon si dedicherà a raccontare e riflettere su episodi e storie legate alla Resistenza. E, fedeli alla linea, anche questo sabato ci nutriremo di un po' di odio per i nazisti, che male non fa. Oggi sono sola al microfono e la redazione mi ha lasciato con una protagonista del Novecento molto particolare. Oggi infatti vi racconto chi è Selma Van de Peer. Innanzitutto usciamo dai confini italiani per andare in Olanda, dove negli anni della guerra incontriamo Selma, una giovane donna ebrea che diventerà partigiana. Veniamo alla conoscenza di Selma grazie a un libro della Mondadori, pubblicato nel 2021, che è una lunga testimonianza della partigiana, scritta nel 2020, dopo tantissimi anni dalla fine del conflitto. Il libro si chiama Il mio nome è Selma ed è stato tradotto in Italia da Claudio Cozzi. L'immagine che abbiamo degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale è quella delle lunghe file di uomini e donne disorientati e impauriti che vanno verso i campi di concentramento. Gli ebrei sono vittime. Il ricordo si fonda su questo. Ma siamo sempre stati incontentabili quando si parla di celebrazioni, memoria pubblica e quindi varie domande ci hanno accompagnato nella lettura. Di fronte alle atrocità del nazismo, è giusto parlare anche di altro? Il ricordo delle vittime, che è alla base delle celebrazioni di molti paesi europei, è sufficiente per andare oltre al affinché non accada mai più? Che cosa significa essere vittima e come si può mettere insieme questo status con il ricordo della Resistenza? Essere vittime, che peso politico ricopre nella ricerca di legittimazione dopo decenni quando la scacchiera del mondo è cambiata? Forse non ne siamo uscite con chissà quali grandi conclusioni, ma sicuramente questa lettura ci ha ricordato ancora una volta che la storia è davvero qualcosa di complesso e intricato e che ricordare e ripensare devono avere lo stesso significato. Per quel che riguarda la Resistenza e le sue declinazioni, questo libro ci ricorda ancora una volta che oltre agli spari in montagna, il mondo dei resistenti e soprattutto delle resistenti era pericolosissimo, quanto variegato, e che ogni atto, eclatante o meno, è stato essenziale per contribuire alla fine del nazismo. Burgundy tomorrow, my nails is long, I know no sorrow cause. Ain't nothing I care to know but where my check so I can get my ticks for the Jay-Z show. And I do aspire to be a video holder, and I know Popeye got shot last night, but that's how it goes in the ghetto. In the ghetto, what do they call me? Read the tattoo on the left breast. My name is Lexus. Yeah, girl. My name is Lexus. Get it right. My skin was young, so young. It burned and tore. My hair was pressed and curled and tied with ribbons that Sunday morning. September 15, 1963, I screamed. In the basement of the church, I screamed. The last day I would ever see. Ma and Pa would never know the woman I would grow up to be. I was an involuntary offering for humanity. Why did they hate me? Why did they hate me, sir? What do they call me? For little girls. For little girls. My skin is tough. This woman, this lunch and home mistake and love maker, double shift worker, sometimes warrior, sometimes weak. This wife, this single soldier, God-given, God-fearing, God-doubting, this bearer of wisdom and fruit and pain, this once girl, sometimes still. Saint, sinner, teacher, multitasker, friend, this everyday wonder, this woman, this nation builder, this raiser of leaders, of losers, of babies, of boys who will become men, girls who will become women, this woman. Some call me mama. Hey mama. Hey mama. Hey mama. My eyes are a rainbow. I reflect the spectrum. I have seen much. My heart weighs heavy. Even with joy, I feel so much. My hair is electric, I am ablaze, I am the source. I can feed you or starve you, breathe life into you or bleed you. I can fuck you or love you. I don't care how they call me, I know who I is. Call me crazy, divine, my art, true honey bun, supreme pontifica, electric lady, holy prostitute. I don't care what you call me, I know who I is. Possiamo addentrare nella storia di Selma van den Peel, che ha combattuto contro i nazisti sotto il nome di Manga e quest'anno ha deciso di raccontare tutto per mantenere viva la memoria, ricordandoci che gli ebrei durante il nazismo hanno lottato arduamente e che opporsi alle barbarie è possibile. Selma, intorno ai 20 anni, è una giovanissima ragazza olandese e non immagina che la sua vita sarebbe cambiata in pochissimo. Ha le amiche, una famiglia che le impegna e che la ama, i suoi lavoretti e la volontà di proseguire gli studi. Selma, prima dei nazisti, al fatto di essere ebrea manco ci pensava più di tanto. I nazisti nei Paesi Bassi ci arrivano a maggio del 1940. L'identità da ebrea fa un giro molto rapido. Riaffiora all'improvvisa con l'avanzata tedesca e con l'insediamento vero e proprio dovrà subito essere camuffata e nascosta. Nel primissimo periodo Selma è incredula, non poteva immaginare le leggi criminali, la sottrazione dei beni e tantomeno le uccisioni di massa. Arrivavano i racconti di alcuni ebrei che erano riusciti a emigrare dalla Germania, ma sembravano cose ancora lontane. Come la maggior parte degli ebrei olandesi, ero totalmente impreparata a quanto stava per succedere. Nonostante le restrizioni e le voci che circolavano, non ci rendevamo ancora conto che l'intenzione dei nazisti era quella di sterminare tutti gli ebrei. Con l'andare del tempo vennero adottati sempre più provvedimenti per isolarci dal resto della società. Nell'inverno del 1941 ebbe luogo lo sciopero di febbraio, diretto contro tutti questi provvedimenti antisemiti. Venne organizzato principalmente da comunisti e socialdemocratici, giornali clandestini come Der Wahrheit e De Vonk, che in seguito aiutò a distribuire, avevano incitato la popolazione a insorgere contro la persecuzione degli ebrei. Tranvieri, ferrovieri e portuali risposero alla chiamata. Altri lavoratori seguirono, ma lo sciopero venne rapidamente represso e i tedeschi arrestarono molti dei partecipanti. Alcuni furono uccisi, mentre un gran numero di uomini e donne finì in carcere. In seguito, mentre ero a Ravensbrück, scoprii che alcune delle mie compagne di prigionia avevano preso parte all'iniziativa. In poco tempo vennero adottate le varie misure per la distruzione del popolo ebraico, dalla stella gialla alla confisca di tutti i beni, dall'allontanamento da molti settori lavorativi ai rastrellamenti. Moltissimi parenti e amici di Selma vengono fatti sparire e solo molto tempo dopo riesce a ricostruire dove il papà, la mamma, la sorellina e tanti altri sono stati uccisi. Da quel momento le cose andarono di male in peggio. Il 14 luglio 1942 ad Amsterdam vennero rastrellati 700 ebrei e il 15 luglio cominciò il trasporto verso il campo di transito di Westerbork e da lì verso Auschwitz, nella Polonia occupata. I tedeschi cominciarono a catturare ragazze e ragazzi per strada e a caricarli sui carri bestiame che dalla stazione centrale di Amsterdam, passando per Westerbork, erano diretti nell'Europa orientale, dove, per così dire, sarebbero stati messi al lavoro. Ora conosciamo la tremenda verità, ma allora, nella nostra innocenza, non ci rendemmo conto di niente. I primi gruppi andarono incontro alla morte persino cantando, brandendo chitarre e violini. Molti di loro furono uccisi immediatamente, ma alcuni vennero prima costretti a lavorare e poi lasciati morire di fame o picchiati a morte. Le giornate per Selma sono sempre più ansiose. Da una parte la volontà di mantenere un attaccamento al quotidiano, dall'altra l'aumento vertiginoso delle barbarie naziste. E la resistenza arriva proprio in questo spazio. La resistenza di Selma è fatta in città ed è fatta della ragnatela delle tante persone che conosceva prima del maggio del 40 e di quelle con cui si è trovata a stringere dei legami forti durante l'occupazione. Uno dei passaggi più importanti e dolorosi è l'entrata in clandestinità, quella sua, quella di sua madre e quella di sua sorella. Il papà è stato portato nell'est Europa e i fratelli andati via sotto gli obblighi di guerra. Le donne della famiglia si sono dovute separare e pagare tanto denaro per trovare un luogo sicuro in cui inventarsi una nuova vita. La clandestinità è dura perché la disperazione è dilagante, non si sa più dove sono i propri cari e si ha la costante paura di essere scoperte. Selma si ritrova senza fissa dimora e costretta a cambiare spesso la casa in cui si nasconde per non mettere in pericolo chi la protegge e si ritrova anche con pochissimi soldi. Ma appena inizia la clandestinità inizia anche la resistenza. All'inizio acerba e inconsapevole, e poco dopo più strutturata. Il primo episodio che Selma riconosce come atto di resistenza è quando aiuta a portare via un bambino ebreo appena nato di una sua conoscente fuori dall'ospedale per metterlo in salvo e affidarlo subito con un'altra identità a una famiglia cattolica. Levi venne chiamato George e affidato alla famiglia di un minatore cattolico del Limburgo, che ne ebbe molta cura. Dopo la guerra si trasferì in Israele. Anche gli altri due figli vennero affidati a genitori cristiani, tutti e tre sopravvissero alla guerra, ma purtroppo non fu così per i loro genitori. Questo fu il mio primo acerbo contributo alla resistenza e la prima volta che mi resi conto della sua esistenza. Continuai a non saperne molto, ma questo episodio mi diede un'idea di quello che stava succedendo e venni coinvolta senza esserne pienamente consapevole. Ancora non potevo immaginare quanto avrei partecipato alle attività della resistenza e pensavo ancora principalmente alla mia sicurezza. Solo più tardi cominciai davvero a riflettere su come aiutare gli altri. Selma entra davvero nella resistenza quando conosce Anne Lange e il dottor Wim Storm, due persone coinvolte pienamente nell'aiuto agli ebrei. Trovano documenti, case sicuri, alleati, cibo e denaro per tutti gli ebrei in difficoltà. Selma incomincia a conoscere una fitta rete di altri resistenti, a cui nasconde di essere ebrea per la sua incolumità e per la loro. È una fitta rete fatta di fiducia e solidarietà, anche se molto spesso non si sapeva il tipo di azioni che ognuno facesse. Sweat. Work it. Work. Work to be a winner. Lavorare per la resistenza sembra forse pericoloso ed emozionante, e ovviamente lo era. Allo stesso tempo, però, tutto finì col diventare normale. Per quanto fossero pericolosi, gli incarichi che mi venivano affidati erano azioni estremamente quotidiane. Prendere il treno, viaggiare con una borsa ad una valigetta, portare dei documenti a qualcuno. Alla fine divenne una routine, un lavoro come un altro. E lo feci così tante volte che per me era un modo di vivere, come fare la modella per gli abiti del signor Mittwoch. In effetti, la cosa più notevole era quanto poco mi curassi della mia incolumità. Volevo essere d'aiuto ad ogni costo, e quella sensazione era molto forte. E oltretutto non si può vivere perennemente nella paura. Persino la paura diventa qualcosa a cui alla fine ci si abitua. La si deve ignorare semplicemente continuando a fare quello che si sta facendo. Ogni giorno mettevo in pericolo la mia vita, ma lo facevo esattamente come tutto il resto. Ciò non significa che non fossi spaventata, ma non mi lasciavo travolgere dalla paura. Il desiderio di combattere i nazisti e di aiutare la gente in pericolo era più forte. Cambio di identità e essere costantemente un'altra persona è uno dei tratti caratteristici della resistenza di Selma e di molti ebrei. L'ultimo cambio di nome importante di Selma è quando ruba il nome di Marga, cioè di Margaretha van der Puyt, e quello diventerà il suo nome definitivamente anche per le compagne solidali che incontrerà in futuro. Solo quando si troverà lontano dai campi nazisti, ormai al sicuro, riuscirà a tornare al suo nome originario, cioè Selma, e lì, in quel momento, quando lo pronuncia, dopo tanti anni, si sentirà davvero liberata. Che cosa faceva Selma come partigiana? È soprattutto una staffetta molto preparata e molto coraggiosa. Non si limita agli spostamenti all'interno delle varie città in cui vive, ma fa anche dei lunghi tragitti che l'hanno messa a dura prova. Ha portato decine di documenti, stampa clandestina, ogni materiale utile per salvare una vita o per contribuire alle azioni dei resistenti e alla liberazione degli arrestati. Ha aiutato tantissime persone a cambiare casa, identità e paese. Ogni stazione, ogni treno e ogni angolo di strada poteva significare la morte per Selma. Bastava una mossa sbagliata, qualcosa che desse troppo nell'occhio, una piccola dimenticanza, un controllo di troppo di qualche dannato nazista che era finita. Finita per Selma e per la sua rete. Perché quei porci di nazisti non si fermavano mica a una preda. Poteva iniziare infatti la ricostruzione delle varie relazioni andando in varie case amiche o estorcendo testimonianze con ogni tipo di tortura, da quelle fisiche a quelle psicologiche. Per esempio uccidendo amici, parenti e partner dei torturati di fronte ai loro occhi, oppure minacciando che se non si fosse parlato avrebbero ucciso altre persone innocenti, tra cui bambini, di fronte alle loro madri. Ecco, Selma ha contribuito ogni giorno alla resistenza, cercando di salvare se stessa e tantissimi altri con questo pensiero fisso. L'angoscia è tantissima e Selma infatti racconta di un costante mal di pancia che per tutti gli anni della resistenza, che arrivata a Ravensbrück si trasforma in un fastidio cronico. Sweat. Work it. Work. Selma ne affronta delle belle, come quella volta che incontra un nazista alla fermata del bus, che la tira in casa facendole delle lusinghe. E lei si finge interessata e coraggiosamente si infila a casa sua. Lei è un nazista in una casa da soli. A Selma le scoppia il cuore nel petto. Lo ascolta, un po' ci sta, Selma tiene il gioco e appena lui si allontana un attimo, gli ruba dei documenti e fugge. Selma arriva fino a Parigi, dove porta a compimento un'importantissima operazione. In Francia erano attivi gruppi di partigiani olandesi legati al gruppo Westerwelle, impegnati anche nell'attraversamento del confine sui Pirenei. Nell'aprile del 1944 alcuni partigiani di questo gruppo vengono arrestati a Parigi e incarcerati nel carcere di France, dove spie inglesi e partigiani francesi vengono brutalmente torturati. Selma, per contribuire alla fuga dei prigionieri, doveva consegnare dei documenti entrando nel quartier generale tedesco, dove avrebbe trovato un complice. si arma di coraggio, di uno sguardo che incanta e che distrae i soldati tedeschi e porta a casa la missione. Sweat. Work it. Work. Arriva anche per Selma, però, il momento dell'arresto, il 18 giugno del 1944. Sono giorni tosti, ma il peggio arriva quando viene portata a Ravensbrück. E anche qui, nonostante tutto, ha sempre un forte riconoscimento per le compagne di resistenza, che vede e che rincontra, e delle quali ricorda sempre il loro coraggio. Pietra dura, se sai cosa che cura, liberami dal male, dalla mia paura. Pietra dura, tu sai cos'è che cura, insegnami a capire, aiutami a vedere cosa conta davvero, che cos'è che conta davvero. Dimmi dove è il posto, l'ora, il tempo giusto, mettimi nel tempo giusto, dammi un segno, un posto. Stella cometa, la notte si va quieta, è calmo respirare, è quieto ritornare alla memoria. Di mondi già stati, di modi già usati per dire, spiegare, cercare, intuire cosa conta davvero. Ravensbrück si trova nel nord-est della Germania. Nel 1939 arrivano i primi prigionieri, circa 132.000 tra donne e bambini, di cui 92.000 morirono di fame, malattie ed esecuzioni. I primissimi anni i neonati venivano tolti alle madri e uccisi in svariati modi, seppellendoli da vivi o lasciandoli morire di fame in una stanza. Questo campo, a prevalenza femminile, era il bacino per la manodopera gratuita per varie aziende come la Siemens. Selma soffre ovviamente moltissimo nel campo, tra la paura costante di morire, la dissenteria, il freddo atroce, i pidocchi, le torture e le condizioni terrificanti delle baracche. E non ultimo, il lavoro da schiave sotto gli occhi dei tedeschi, per le aziende che collaboravano con i nazisti. Selma però ha ancora un po' di coraggio e di determinazione e infatti cerca il più possibile di stringere legami con altre compagne e di aiutare nei momenti di sabotaggio e di solidarietà reciproca. Sarà davvero dura sopravvivere, l'ultimo grande atto da partigiana, ma alla fine arriva la liberazione. Selma, dopo la guerra, la ritroviamo a Londra, dove la lavora per la BBC e successivamente per una stazione televisiva olandese. Si innamora e si sposa, diventa madre e si impegna per non dimenticare le atrocità naziste e per ricordare che ha dato tutto per opporsi al regime. I ricordi sono dolorosi, difficilissimi, i traumi e la disperazione vissuta non la lasceranno, nonostante la vita felice. Ma anche ora, di fronte al peso della memoria, ricordare è un atto di dovere, per dirci ancora una volta che opporsi è possibile, anche quando fai parte del popolo che i nazisti hanno deciso di sterminare. Io vi saluto. Spero che questa storia vi abbia suscitato curiosità o portato alle grandi domande risolte su memoria e resistenza, che immagino anche a voi non facciano dormire la notte. Se la risposta è sì, scriveteci su Facebook, su Twitter o sui contatti che trovate nel nostro sito insieme alle vecchie puntate www.radiovanlund.info/. Buon pomeriggio, ci risentiamo il prossimo sabato. Let's go, we the dead yet low. And a friend got me, never stop, let's go. Uncle floor, bro, angel, the death blow. All at war, that the grow, what do you stand for? Hey ho, let's go, we the dead yet low. And a friend got me, never stop, let's go. Uncle floor, bro, angel, the death blow. All at war, that the grow, what do you stand for? Talk about the economies waging war on their own ball, instigating to fuel an artificial race war. To them, no lives matter at all. A bunch of frat boys, suddenly a neo-Nazi wannabe's war. At the age of doctors, middle-aged, minded militants, warmongers actively boycotting immigrants, forgetting history or running up people and killing them, trying to justify the Holocaust with stubborn willingness. Misogynistic state proclaim itself to be progressive, despite the government are spitting in their people's faces. Rights are limited to massive she's through it.